passo da muti bisogni, di essere soli con i propri sogni. Sogno assoluto di concretezza, bisogno recondito d'assolutezza. E lascio felice il mondo e il casino, mi lascio marcire nel loro destino. E non so dove corrono i giorni miei, ma spero soltanto che fermino a te. Pensando di partire, ormai i miei pensieri di restare qui, seconda amante vergine, dal mondo al profondo dovrei abitare per.